Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ieri la puntata di Viva Voce era dedicata all'acqua, che si vorrebbe privatizzata. L'acqua deve restare libera per il cittadino. Guardate quello che succede in Sicilia e in altre regioni meridionali. L'acquedotto non funziona o non viene fatto funzionare e chi ha l'acqua, che magari è quella presa dall'acquedotto, specula alla grande. Poi abbiamo l'esempio di tutto quello che da pubblico è stato privatizzato, che è solo aumentato senza portare benefici, telefoni, gas, luce. I problemi sono altri. Evitare gli sprechi nelle strutture che gestiscono gli acquedotti, toglierli alla politica ma non ai comuni, concentrare la gestione acquedotti a livello regionale, limitare il consumo a basso prezzo, fino a X litri, prezzo basso, poi prezzo crescente, far pagare l'acqua a chi la usa sprecandola, innevamento artificiale, industrie autolavaggi, eccetera. Buona giornata, Andrea Mestre. Da diversi anni a questa parte, i comuni stanno cedendo ai privati una gran quantità di attività, come il trasporto alunni, la distribuzione del gas e dell'acqua, e così via. Abbiamo potuto notare come e quanto siano aumentati i costi a mano che avanzava la privatizzazione, e nonostante questo, i comuni hanno continuato a chiedere sempre maggiore quantità di denaro e, soprattutto, ad assumere clientelarmente nuovo personale per fare in 5 persone quello che in precedenza faceva una sola. Ci sono società che gestiscono l'acqua che la fanno pagare un occhio della testa, il noleggio del contatore, il canone di fognatura. Ogni società per la distribuzione dell'acqua ha un presidente, dei consiglieri, degli ingegneri, dei tecnici di secondo livello, degli operai e dei macchinari. Prima era il comune che provvedeva a tutto, senza i costi sopra menzionati. Distinti saluti. Leo. Vi scrivo a proposito della questione Gelmini. Da genitore di 2 belle bambine mi sono interessato alla cosa e devo dire che sono rimasto stupito dal clamore contro la Gelmini e il suo presunto passo indietro. Non capisco tutto questo clamore. In pratica mi sembra che rispetto a quanto la Gelmini ha detto negli ultimi 6 mesi non sia cambiato nulla. Ha detto manterremo il tempo pieno e lo potenzieremo, e lo ha fatto. Toglieremo il modulo, il 3x2, per cui ci sono 3 docenti per 2 classi in compresenza, e metteremo il maestro prevalente, unico, lo ha detto la stampa, non la Gelmini, e lo ha fatto. Si potrà continuare a scegliere tra tempo pieno e tempo parziale, con il maestro prevalente al posto del modulo, e lo ha fatto. Ora il maestro prevalente lo si può fare in 3 modalità, con 24 ore, 27 o 30 ore, secondo l'autonomia scolastica, con più o meno inglese o ginnastica, secondo delle scuole. Perché una marcia indietro? È venuto fuori che il maestro unico è facoltativo, ma ci mancherebbe altro. C'è il tempo pieno. Quello che non c'è più è il modulo, la compresenza. E io, da genitore, posso scegliere tra maestro unico e tempo pieno. Non dovrebbe essere così? Antonio. Già adesso le famiglie scelgono alle elementari se iscrivere i figli al tempo pieno o ai moduli. Ora, in entrambi i casi, gli insegnanti sono 2 più l'insegnante di inglese e in entrambi i casi ci sono momenti in cui sono presenti contemporaneamente in classe 2 insegnanti. Con la riforma mi sembra di capire che nei moduli ci sarà il famoso maestro unico e nel tempo pieno non ci saranno più momenti in cui sono presenti più insegnanti contemporaneamente. Lo scandalo vero sono le scuole di paese, dove per classi di 10 alunni sono presenti 2 o più insegnanti, musica, ginnastica, religione, eccetera. Grazie, Laura, Genova. Relativamente alla questione scuola, ho appreso con mio stupore che in realtà, fin dall'inizio, non si sarebbe potuta, almeno nel breve periodo, applicare la riforma con il maestro unico. Ho partecipato a un open day in una scuola elementare della mia città. Giorno di presentazione della scuola ai genitori che devono fare la preiscrizione al primo anno di elementari per i figli che escono dalla scuola materna. E durante questa presentazione, uno dei responsabili del plesso scolastico ci ha chiaramente detto che, visto che il contratto nazionale prevede un orario massimo settimanale di lavoro per i maestri di 22 più 2 ore, Tale condizione non avrebbe potuto permettere, salvo improbabili cambiamenti del contratto, l'attuazione del maestro unico sui moduli da 27, 30 e 40 ore, ossia la quasi totalità. Allora mi sono chiesto come diavolo sia possibile che al Ministero nessuno lo sapesse. Cordiali saluti, Matteo Vercelli. Siete tutti d'accordo sul fatto che la Gelmini e il governo abbiano fatto marcia indietro sulla scuola. Direi invece che la dimostrazione della vera democrazia sta nel fatto di proporre delle leggi, di ascoltare l'opinione pubblica e poi adeguare le leggi all'opinione comune. Viva la democrazia in cui viviamo. Nicoletta. Sentendo le discussioni sul contrasto dato dalla crisi economica in aumento e la corsa alle vacanze invernali, nonché a quella dell'high-tech, ovviamente per chi può, mi sento di fare questa considerazione. Se qualcuno spende, credo sia un bene, perché più il soldo gira, più crea ricchezza, e se molti sono costretti a ridurre i consumi, con un'oculata amministrazione delle proprie risorse, si può campare lo stesso decentemente sopportando i tempi difficili attuali e con la speranza di un futuro miglioramento. Mi permetto di suggerire a quanti lo ritengono opportuno di trascrivere da qualche parte tutte le spese di ogni mese, anche e soprattutto le più piccole, in modo da rendersi conto dove vanno a finire i soldi, e sono convinto che salterebbero fuori parecchie uscite da limare o addirittura da tagliare. Io, che vivo da solo e sono di peso abbondante, l'ho fatto per 12 mesi di fila e continuerò ancora, segnando solo le spese alimentari e i detersivi, con il seguente risultato: media mensile 190 euro e sono seriamente intenzionato a diminuirla, se ci riesco. Fabio. Mi chiedo come mai Berlusconi invita solamente i consumatori a spendere e non artigiani, commercianti e le categorie che in questi anni si sono ingrassate ad abbassare i prezzi. Con ogni probabilità otterrebbe risultati migliori. Franco, Verona. Ascolterò senza dubbio l'invito di Berlusconi. Anzi, ho programmato di spendere ben 1.600 euro. 400 euro in più del mio stipendio. Ma non lo farò per acquistare regali. Donerò un altro anno di vita a 5 bambini più sfortunati mediante adozioni a distanza. Sono ormai più di 10 anni che a Natale la mia famiglia vive bene senza acquisti inutili. E facendo così sappiamo di dare vita, salute e istruzione a bambini nelle più disgraziate condizioni. Lionello. Tornare su un argomento più volte trattato, ma sul quale difficilmente mi trovo d'accordo, con quanto sostenuto dagli esperti, e più precisamente sulle ripercussioni che ha avuto il passaggio dalla lira all'euro. Premetto che sono stato e sono tuttora favorevole alla moneta unica. Quello che forse si sarebbe potuto fare era una migliore gestione del fenomeno. Riprendo questo argomento perché è opinione comune che si è trattato di un evento singolo che ha, sì, avuto delle ripercussioni, ma dopo anni è stato assorbito e non è corretto richiamarlo ancora in causa quando si parla dell'attuale situazione economica. Al riguardo mi permetto di non essere completamente d'accordo con questa teoria. Partiamo dall'entità del fatto. Abbiamo sentito le più diverse stime sull'incidenza degli aumenti verificatisi. Chi diceva dal 3 al 4%, chi al massimo il 10%, qualcuno, particolarmente ottimista, ha persino detto che si trattava di inflazione percepita piuttosto che reale. Io sono un funzionario commerciale e quotidianamente redigo le mie note spese. Posso assicurare che la stragrande maggioranza di alberghi e ristoranti hanno effettuato il cambio uno a uno, quindi con un aumento del 100%. Gli altri esercizi commerciali e i servizi non così tanto, ma li hanno seguiti a ruota. Secondo i miei conti, nel passaggio lira-euro il mio stipendio ha perso dal 30 al 35% di potere d'acquisto. Stante questo dato, è chiaro che mentre i redditi autonomi si sono adeguati, almeno in parte, chi percepisce un reddito fisso è in sofferenza, in quanto da un lato ha subito una notevolissima decurtazione del proprio potere d'acquisto, dall'altro gli stipendi non hanno nemmeno tenuto il passo dell'inflazione. Quindi, se è vero che il passaggio lira-euro si è verificato una sola volta, è altresì vero che la perdita di potere d'acquisto ce la porteremo da qui all'eternità, a meno che si verifichi l'ipotesi poco realistica che i prezzi si congelino e che gli stipendi recuperino il gap nei prossimi anni. Cordiali saluti, Fulvio, provincia di Milano. È noto che le imprese italiane di costruzione sono state e sono assolute protagoniste di grandi lavori effettuati all'estero. Possibile che solo in Italia dobbiamo registrare difetti macroscopici? Mi riferisco ai sottopassi perennemente allagati, alle gallerie autostradali affette da perenni sgocciolamenti dal soffitto, cedimenti strutturali nella realizzazione di viadotti, eccetera. Penso che se ciò si verificasse all'estero, avremmo perso, e da tempo, questo mercato. E allora qual è la spiegazione di questo fenomeno? Corruzione? Mancati controlli delle stazioni appaltanti o degli enti preposti? Inoltre, recandomi in Germania, ho notato che la costruzione delle case viene fatta con utilizzo di avanzate tecniche di costruzione e che non c'è cantiere in cui gli operai non abbiano i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni. Perché loro sì e noi no? Cordiali saluti. Agostino. Non condivido la campagna contro le province. Le province sono l'unica forma di governo aderente alla specificità dei singoli territori. Le regioni sono troppo grandi e hanno competenza su territori non omogenei. Molte sono le province efficienti e capaci di dare risposte ai singoli sistemi produttivi locali. Quelle inefficienti dovrebbero essere messe in condizioni di diventare efficienti perché sono indispensabili. Gli sprechi stanno a Roma e nei capoluoghi di regione, ministeri pieni di personale, consiglieri regionali pagati a vita come quelli nazionali. Si sta utilizzando il sentimento anticasta per assecondare una pericolosa deriva centralistica. Così si uccidono i 1000 piccoli distretti produttivi e si penalizza la periferia, quella che produce, che vive di lavoro proprio e che vuole le province, quella che non riesce a comunicare con il centro. Guardiamo i bilanci degli enti locali. Non conosco province in difficoltà, sono alcune regioni e comuni che hanno difficoltà gravissime. Piuttosto obblighiamole a funzionare bene. Sono il solo governo sovracomunale capace di gestire i servizi in modo aderente alle esigenze delle popolazioni. Luigia. Faccio il taxista. Sono ormai passati 2 anni dalle liberalizzazioni che riguardano la mia categoria. A Roma ci sono 2000 taxi in più. Si disse che con questi taxi in più noi avremmo avuto solo vantaggi, mentre io sostenevo che avremmo perso circa 40 euro al giorno. Devo ammettere che mi ero fortemente sbagliato. Infatti la perdita è di circa 60. Oggi mi trovo a dover chiedere aiuto a mia madre pensionata per poter pagare il mutuo di casa. Roberto. Non ho parole per descrivere la sfrontatezza con la quale Francesco Rutelli commenta sul Riformista la situazione creatasi a Roma per effetto delle piogge eccezionali che hanno colpito la capitale. Secondo lui la colpa è tutta della giunta Alemanno. È incredibile. Alemanno si è insediato da pochi mesi, dopo decenni di giunte di sinistra, compresa quella di Rutelli, e la responsabilità di com'è mal strutturata la città è sua. In pochi mesi doveva mettere a posto tutti i disastri delle fognature romane. Io credo che la lotta politica debba incontrare un limite nella decenza, altrimenti è inutile lamentarsi della perdita di fiducia dei cittadini nei suoi rappresentanti. Cordialità. Marco, Roma. Caro direttore, scrivo per raccontare cosa è accaduto alla mia ragazza alla ricerca di un lavoro in Italia. Lei è una professionista nel settore dell'accoglienza turistica. Ha 31 anni, parla 5 lingue, polacco, inglese, russo, finlandese e italiano. È laureata in turismo e scienze informatiche e ha esperienze di lavoro in Finlandia, in hotel a 4 e 5 stelle, sia come manager di sala che in reception. Ora è venuta in Italia da me e sta cercando un lavoro con una qualifica simile. L'altro giorno è stata contattata da un lussuoso hotel di Roma, un hotel a 5 stelle. È andata a un primo incontro, ma la persona in questione non era presente. Ha dato buca, si dice da noi. La seconda volta, contentissimi delle sue qualifiche, molto interessati al fatto che parlasse russo, le hanno proposto un periodo di prova di 3 mesi e poi la prospettiva di un'assunzione. Hanno deciso per un terzo incontro direttamente in un ufficio del lavoro per la sigla del contratto, se non che, all'ultimo momento, esce fuori che non si parlava di un periodo di prova, ma di uno stage non retribuito di 3 mesi, con la successiva assunzione assolutamente non garantita. La mia ragazza ovviamente ha rifiutato. Ora io mi chiedo, che paese è questo dove non si è in grado di riconoscere le professionalità e si pone una 31enne laureata con la conoscenza di 5 lingue e molteplici esperienze nel settore specifico sullo stesso piano di una 20enne neolaureata o magari solo con il diploma in cerca di un primo impiego? Come può crescere il sistema Italia se l'unica cosa che andiamo a cercare è il risparmio e mai l'investimento? Io sono un micro imprenditore e collaboro con molti freelance. Con tutti cerco di prendere impegni chiari e trasparenti, che so di poter mantenere. Cerco di riconoscere le professionalità di ognuno, sia nel coinvolgerli su singoli progetti, sia nel retribuirli. Mi piacerebbe poter anche assumere qualcuno, ma purtroppo il sistema di tassazione del mondo del lavoro e il sistema di non licenziabilità in Italia mi impediscono questo passo. Ma cerco costantemente di lavorare e far lavorare nelle migliori condizioni possibili, perché credo che solo così, solo con l'incontro di entrambe le parti, si abbia efficienza per entrambi. Cordiali saluti, Marcello. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.